fasten your seatbelts. Don't forget your keys. Your engine is on. Please fasten your seatbelts. Radio Onda Rossa 87.9 in modulazione di frequenza inizia anche per oggi 16 gennaio del 2019, prove tecniche di trasmissione, spazio che andrà avanti sino alle 22.30 circa. Questa sera non ci sarà 25 o'clock, abbattuto da una malattia di stagione, il classico raffreddore, e quindi lo salutiamo, gli diamo appuntamento alla prossima settimana. 0649 1750, contatto telefonico. www.ondarossa.info è invece il nostro sito internet, già abbastanza sfruttato. Per le comunicazioni mediante posta elettronica ondarossa@ondarossa.info. Domani invece sul sito della radio e su prove tecniche di trasmissione /disorder, che è una pagina Facebook, naturalmente uscirà la playlist e il podcast. Già numerosi affezionati a questi spazi, e quindi salutiamo molto volentieri Alessandra, graditissima, qui da Roma, il medico della peste, Tania, sempre qui da Roma, Maya, naturalmente anche lei dalla Sardegna, anche lei affezionatissima, Nicolò Locci, sempre dalla Sardegna, Rossana dell'Emilia Romagna, Enrico Cerrato da Asti, Piemonte, lo salutiamo, alias Petrolio, Fulvio Biondo qui da Roma, e anche il grande Antonio Zoviet, alias Omicidio, ricordiamo anche questo è un progetto musicale. Da Firenze. Dunque, iniziamo con Giovanni Lisi, che salutiamo nel caso sia all'ascolto, con il suo progetto Cordis Cincti Serpente. Finiamo dunque col analizzare questo Cenobitorium, questo album con tre lunghe tracce di stile esoterico industriale, come si suol dire in questi casi. Thank you. Tre dunque tracce dal sapore ritualistico sacrale. Oggi ci ascoltiamo la seconda parte di Cenobitorium, parte 3. Dunque, una lunga traccia questo Cinobitorium numero 3. Un'ampia parte ce la siamo ascoltata la scorsa settimana e ne stiamo sentendo ancora qualche minuto. Un lavoro influenzato, e su questo mi sento di dare ragione ad Antonio Zoviet e anche ai primissimi Current 93 e a tutta la tradizione che girava intorno al Temple of Psychic Youth, sorta di collettivo esoterico musicale. Intanto salutiamo Like Awake qui da Roma, Raffaele Pezzella da Napoli, e anche Luciano FM Genovese, anche lui un affezionatissimo di questi spazi. Come al solito anche questa sera avremo molti artisti provenienti dall'Italia, quindi dopo Cordis e Cincti Serpente di Giovanni Lisi, eccoci qua con Psycho Kinder di Andrea Camilletti, un mini album lo definisco io, sono 12 brevissimi pezzi, un'opera che abbiamo anche grazie ad Alessandra che ce l'ha reperito e che ringraziamo di nuovo. Dunque, Diario Ermetico, una sorta di schegge poetiche composte da Alessandro Camilletti per l'appunto, con l'ausilio musicale soprattutto di un altro personaggio oscuro dal nome Deca, che ogni tanto sbuca nelle composizioni di vari artisti come ospite. Dunque, queste tracce non hanno titolo e noi ci andiamo ad ascoltare dalla prima alla sesta traccia, e lo ricordo, sono veramente delle tracce molto brevi, dove si può notare anche il canto riflessivo e magnetico di Alessandro Camilletti con le relative appunto poesie, chiamiamole così, proprio composte dallo stesso. Ci ascoltiamo dunque Diario Ermetico.

siamo rimasti tutti, credo, abbastanza affascinati, sia che io che sono qui, ma anche i numerosi ascoltatori che sono adesso connessi o sintonizzati con Radio Onda Rossa, delle metriche della poesia di Alessandro Camilletti, inserita in questo diario ermetico a voce Psycho Kinder, un disco che esce per la Fonetica Meccanica, etichetta dello stesso Psycho Kinder, particolarmente attivo quest'anno, già che è uscito anche Extension, sorta di remix e collaborazione con artisti abbastanza conosciuti, per esempio Valerio Zecchini di Post Contemporary Corporation, Carnera e tanti altri. Emigrano. Salutiamo ancora Alessandro Bellotta della Grazia Obligua. Vi do anche una piccola anticipazione, diciamo al 99% ci sarà un'iniziativa a sostegno di Radio Onda Rossa che vedrà appunto la Grazia Obliqua in concerto insieme ad Artica, tutto ciò venerdì 8 febbraio in quel del Forte Prenestino, ma ne parleremo anche nelle settimane che verranno. Un saluto anche a Carlos Silva from Mexico City. Lasciamo dunque questo mini album diario ermetico, queste 12 breve tracce molto intense, comunque un disco che chiaramente sentiremo tutto anche prossimamente. Rimaniamo qui in Italia, ma torniamo indietro di molti molti molti anni e in questo senso mettiamo in gioco Fulvio Biondo di Solar Lodge. Infatti ci aggiungiamo praticamente a fare un minimo di retrospettiva di Solar Lodge, che fu un progetto degli anni 90, proprio capitanato da Fulvio Biondo, che mi hanno ospitato, e Enrico Angarano. Era un duo che si muoveva tra ambient, atmosfere ritualistiche, cenni di new wave. Un progetto molto particolare che appunto nacque nel 1992 per dare alla luce l'ultimo lavoro nel 2002, che fu Walks and Wayne. Invece noi ci ascoltiamo il secondo lavoro del 1995 dal nome According to the Rights of Beauty. Un album che si apre con questa The Weird Sisters, che vede le percussioni Ale Sordi. E con questo salutiamo ancora Fulvio Biondo. Con molto piacere abbiamo riscoperto questo lavoro di Solar Lodge, According to the Rights of Beauty, del 1995, quindi sono ormai 24 anni che è uscito questo lavoro, che usciva per la Disaster by Choice e per la Epsilon. Ricordiamo, Fulvio Biondo fondamentalmente alle macchine elettroniche, Enrico Angarano alle chitarre. Solar Lodge evidentemente è un nome mutuato dalla carriera dei Coil, da un brano presente nel primo lavoro dei Coil stessi, ossia Scatology. C'è anche, per certi aspetti, anche un'influenza dei Coil. Il tutto arricchito da questi movimenti percussivi che di tanto in tanto vengono fuori nella produzione di Solar Lodge. Dunque, Solar Lodge, che poi, ripeto, andremo a conoscere meglio anche nelle prossime settimane, anche attraverso gli altri due lavori in mio possesso, che mi sono stati donati con molta gentilezza dal Fulvio Biondo, che ringrazio nuovamente. Se non ero poi Solar Lodge, personalmente l'ho visto in un Destination Morgue, famosa kermesse industriale qui a Roma qualche annetto fa, anche se da solo sul palco, un buon concerto, me lo ricordo. Un grosso saluto anche ad Emiliana Voltarel di Braconide, artista che abbiamo apprezzato nelle puntate precedenti e che speriamo anche di vedere un giorno dal vivo qui a Roma, per esempio, perché no? Un inizio italiano, dunque, prettamente italiano. E adesso invece un grosso salto geografico, andiamo in Indonesia addirittura, e lo facciamo con il Senyawa, una delle novità più stuzzicanti del 2018. Un disco che per certi aspetti e per certi approcci mi ricorda per esempio il lavoro svolto da Brian Eno e David Byrne in Malaysia o Bash of Ghost, ma questo è ancora più etnico e ancora più vissuto da quelle parti, in questi mondi così lontani. Si chiama Suyud, ossia prostrazione, questo lavoro, uscito nel novembre 2018, e ci ascoltiamo proprio il brano omonimo, Suyud. grande uscita nel recentissimo 2018, segnava con Rulli Shabar Erman e Vukir Suriati un album dal nome Suyud, scoperto grazie all'interesse di Gianluca Becuzzi, che salutiamo, già che abbiamo scoperto che si è sintonizzato orora. Suyud, effettivamente mantrico, sciamanico, pervaso da spirito religioso, per così dire. Molti album al loro attivo, esistenti da 10 anni. Album veramente ipnotico, una scoperta molto interessante, questi Segnawa, che anche loro andremo un po' ad approfondire. Salutiamo intanto Alessandro Camilletti, benvenuto in prove tecniche di trasmissione. Alessandro Camilletti, ossia Psycho Kinder, l'artista che abbiamo sentito qualche minuto fa con Diario Ermetico, un saluto a lui e gli diciamo che Diario Ermetico sarà in queste selezioni anche nelle prossime settimane. Dunque, il momento dell'opera incessante di Raffaele Pezzella, che come tutti sapranno ormai si diletta in ottime compilation che vanno a studiare e ad analizzare tante scene anche inusuali dal punto di vista musicale. Questa volta invece ci ha regalato una compilation molto lunga e suntuosa dal nome Electro Framework, che fa il punto sulla cosiddetta scena elettroacustica che spesso viene apprezzata da queste parti. Il caso vuole che iniziamo proprio da Raffaele Pezzella con il suo progetto Sonologist, che è la quarta traccia di questo Electron Framework, che esce attraverso la Nespresso Sounds Group, si può anche reperire attraverso il profilo Bandcamp. Ci ascoltiamo Dahomey Kingdom. Technologist in una versione, diciamo, insolita, già che lui si muove su ambiti anche più tra l'ambient e la sperimentazione sicuramente, ma qui c'è anche letteralmente sorpreso Bonsonologist di Raffaele Pezzella. Andiamo avanti sempre dalla medesima compagnia.